si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, eccoci qua l'appuntamento del sabato e la domenica a mezzogiorno su Radio 24, l'altra cronaca, l'altra attualità, le buone notizie, le nuove tendenze che ci salveranno. Noi aspettiamo anche le vostre segnalazioni su Facebook, si può fare trattino Radio 24, siamo anche su Twitter, si può fare 24, e poi c'è anche la mail, si può fare @radio24.it. Notizie così, per esempio, sapete che il trasporto locale è sull'orlo del fallimento, autobus, tram, metropolitane, però è l'unica cosa che ci può salvare nelle ingorghi stradali. C'è stato tra l'altro ieri a Milano l'appuntamento per una nuova mobilità, pedali, pedoni e pendolari, per un nuovo modo di spostarsi nelle città. Allora sentite, questa è la notizia. Per mettere un freno al fenomeno dei portoghesi, cioè quelli che non pagano il biglietto, d'ora in poi è stato raggiunto un accordo, sarà il controllore, sarà lo stesso autista, cioè si passerà dall'ingresso vicino all'autista e si dovrà far vedere il biglietto. Senza non si sale, si potrà pagare e comprare anche lì per lì con un'aggiunta di 50 centesimi. Una piccola, piccolissima rivoluzione, ma non so quanto piccola in Italia, perché questa cosa non si è mai vista. Invece c'è all'estero, per esempio a Londra. Bene, è stato raggiunto un accordo con le associazioni di categoria e quindi funzionerà così anche su bus, tram, metropolitane. No, le metropolitane no, è un altro sistema. In Italia. Un'altra notizia, visto che ci avviciniamo verso l'estate, viene dalla Puglia: spiagge libere, una ricetta anticrisi. Il regolamento vieta la realizzazione di recinzioni attorno alle spiagge. Dicono che insomma il mare deve essere accessibile, deve essere libero, ci deve essere il modo di passare, di andare senza dover pagare canoni, affitti per forza. Niente recinzioni e niente anche picnic in Puglia, in base a questo regolamento, in zone non autorizzate. Cioè non si possono più vedere quegli sbrachi di cose che poi fanno gridare a ripuliamo tutto, mandiamo via tutti. No, le cose bisogna farle negli spazi giusti, nei modi giusti, e però il mare deve essere aperto. Un'altra notizia la vogliamo dare dalla Toscana, riguarda gli amici cassa integrati. Quelli che hanno perso il lavoro in questi anni continueranno ad avere il sostegno al reddito per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, perché la Toscana continua a non far pagare il ticket sanitario ai cassa integrati. Notizie così le aspettiamo, come abbiamo detto, su Facebook, su Twitter, e poi non dimenticate la nostra segreteria telefonica dove lasciare le vostre ricette per salvare l'Italia in un minuto. Cose così. Ritengo che per risolvere i problemi del lavoro di tanta gente, eccetera, occorrerebbe fare un progetto da parte della pubblica amministrazione, tipo genio civile, per salvaguardare il territorio, mettere in sicurezza il territorio, e può essere finanziato da parte dello Stato senza indebitarsi, ma vendendo qualche bene che tiene in tutte le province d'Italia, comprese solo le sedi delle province. Con questi soldi potrebbe finanziare i progetti seguiti dalla pubblica amministrazione ed aperti a tutti i disoccupati o a quelli che non hanno lavoro, e anche a quelli che hanno la cassa integrazione, che dovrebbero scegliere se lavorare o no. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. You've got your love. La recente nomina ad un ministro per l'integrazione, Cécile Kyenge, ci ha ricordato insomma che esiste questo tema della immigrazione in Italia. Gli insulti, le polemiche, gli insulti anche gravi che ha ricevuto ci hanno ricordato che in Italia esistono purtroppo ancora un po' di persone che stupidamente manifestano forme di razzismo, nelle quali poi non so neanche quanto credano per davvero, ma insomma bisogna farlo ogni volta che questo tema ricorre. E invece la storia che vi andiamo a raccontare a Bari ci dimostra che ci sono invece un sacco di persone che si muovono a solidarietà. Non sono un Superman, abbiamo scelto questa canzone perché Kadim Bale è un ragazzo senegalese di 34 anni, ha sventato una rapina a Bari, ha ciuffato i rapinatori, in un gesto di solidarietà si è buttato a suo rischio e pericolo. Da allora la cittadinanza lo ha accolto in un abbraccio e siccome lui è irregolare, adesso sta cercando di fare qualcosa per lui. Salutiamo Kadim Bale, intanto buongiorno, ciao. Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, i giornali hanno scritto: non sono un eroe, sono solo un barese innamorato. Non sei un eroe, però ti sei comportato quasi come un eroe. Prima di tutto, però, da quanto tempo sei in Italia, Kadim? Io sono in Italia da 13 anni. Cosa fai nella vita? Faccio il Vucumbra, però prima lavoravo come una marmista. Come marmista? Sì. Dopo che ho perso il lavoro, non ho più potuto per rinnovare il mio permesso di soggiorno proprio. Quindi diciamo avevi questo lavoro che ti consentiva di stare in Italia regolarmente, poi questo lavoro è venuto meno e hai perso il permesso di soggiorno e adesso sì. Fai insomma il commerciante ambulante, il Vucumpra. Sì, il commerciante ambulante. Il Vucumpra. Cosa vendi? Sì. Io vendo le borse e gli occhiali così. Ma quelle taroccate o quelle vere? No, normale. Mi raccomando, perché sennò poi diventa un reato, sai. Oltre al fatto di essere irregolare, meglio non esagerare. Kadim, raccontaci però di questo episodio che ti ha visto protagonista. Cioè, tu hai sventato una rapina a Bari. Che cosa è successo? Era un sabato verso l'una e mezza, due. Io stavo un negozio indiano. Vicino al negozio indiano c'è una focacceria. Sì. Poi io stavo dall'altro negozio a fare le spese. E poi ho sentito urli: aiutatemi, mi hanno derubato così i ladri. E sono uscito fuori e ho visto che il ladro sta scappando proprio. Tutto. Poi ho lasciato le spese, l'ho rincorso. Dopo 5 minuti l'ho ripreso. Sai, l'ho portato lì dentro. Poi l'ho portato dentro il negozio. Hanno chiuso il negozio, hanno chiamato la polizia. Tutti sono venuti. Non hai avuto paura a buttarti a inseguire il rapinatore? Cioè è stata una cosa istintiva o ci hai pensato un po' prima di farlo? Sì, perché mi dispiacevo con la signora lì, tutti sono fermi, le sai, nessuno voleva aiutarla, le sai, io non posso stare lì a guardare. Sei stato l'unico che si è mosso, che si è messo poi a correre di fatto per andargli dietro. Sì. E lui aveva anche il coltello. Ma non lo ha utilizzato quando tu sei andato a prenderlo? No, però poi l'ho bloccato così, lo sai, poi l'ho riportato subito al negozio proprio. E insomma, da allora tu sei conosciuto lì, insomma, nei paraggi, le persone che hanno saputo di questa cosa si sono interessate a te, proprio perché in questo momento tu non hai il permesso di soggiorno e quindi chiedono che questa cosa invece possa essere fatta per motivi civili. Salutiamo Giuseppe Milano, che è uno degli animatori della petizione, che chiede che cosa, Giuseppe? Abbiamo chiesto subito dopo, insomma, aver conosciuto questa iniziativa di adottare Kadim da parte della città di Bari, con questo appello con cui richiediamo alle istituzioni preposte il rilascio per meriti civili di permesso di soggiorno di un anno. Per meriti civili, c'è anche un sito tra l'altro dove si può aderire. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi tra poco ci spiegherete tutto. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme a raccontare la storia di Kadim Ball, un ragazzo senegalese di 34 anni che ha sventato una rapina a Bari. Adesso alcuni concittadini si sono mossi per lui, ne stavamo parlando anche con Giuseppe Milano, uno degli animatori di questa petizione, che è anche un blog, anche un sito. Vogliamo dare l'indirizzo? Noi abbiamo questo blog sulla piattaforma WordPress, che è Kadim l'Italia Reale, attaccato.wordpress.com. Perché avete scritto l'Italia Reale? Perché innanzitutto noi crediamo che oggi il tema della sicurezza da un lato e dell'integrazione culturale dall'altro sono posti nell'agenda politica italiana in maniera confusa e disordinata, spesso pregiudizievole. Allora noi riteniamo che bisognerebbe superare questo approccio considerando la ricchezza che culture diverse dalla nostra possono rappresentare, e quindi in un'ipotetica prossima Italia, in un'Italia reale, davvero prossima alle istanze di tutta una comunità e di una società in continua trasformazione, pensiamo che esperienze come quella di Kadim, ma ce ne possono essere tante che ancora non conosciamo, possa renderci sicuramente un paese migliore, anche alla luce dei tanti nati in Italia che ancora però non sono considerati dalla nostra burocrazia italiani a tutti gli effetti. Ecco, io vorrei tornare un attimo a Kadim per chiedergli che effetto ti fa questa solidarietà, persone che si sono mosse così nei tuoi confronti per venirti incontro. Ti senti, cioè, ti farà piacere? Sono molto emozionato il fatto che c'è l'avvocato Francesca Laforgia che mi sta seguendo e anche mi sta aiutando molto l'associazione antimafia Rita Adria. Sì, e ma il sindaco di Bari. Te l'aspettavi tutta questa solidarietà? Io non si sente questo, perché io quello gesto lì l'ho fatto solo per aiutare la signora, io con questa iniziativa non me l'aspettavo proprio. Chiaro, hai agito l'istinto, non è che hai pensato questo sì alle conseguenze di quello che facevi e al fatto che poi questa cosa avrebbe potuto inscenare, scatenare questa solidarietà. Va bene, noi insomma siamo contenti di aver raccontato questa storia. Io vorrei chiudere, Giuseppe Milano, uno degli animatori di questa petizione, quindi adesso avete raccolto quante firme? Poche settimane, abbiamo raccolto quasi 1700 adesioni. Ma adesso cosa si può fare? A chi le girate? Al Ministero dell'Interno? Alla Questura? Come funziona? Sì, ora noi praticamente consegneremo questo plico di firme raccolte attraverso il blog, attraverso l'indirizzo email che è kadimolitaliareale.gmail.com. Torneremo a incontrare il sindaco Michele Emiliano, che si è dimostrato molto sensibile a questo tema. E vedrete se si apre uno spiraglio istituzionale di qualche tipo. Sì, alle istituzioni preposte per avere questo permesso di soggiorno. Kadim, tu sei fidanzato, so, almeno così riportavano i giornali. Sì. Ti devi sposare prima o poi? Perché... Sì, normale. E allora guarda, resta in ascolto se vuoi, perché la prossima storia parla proprio di questo. Grazie intanto a voi per essere stati con noi. Questa è la storia di Kadim Bal, senegalese di 34 anni che insomma, si ha sventato una rapina a Bari e adesso i suoi concittadini vogliono dargli una mano. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Who cares if we're trash, got a pocket full of cash, we can blow. Shots of patrol, and it's on, girl. Don't say no, no, no, no, no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And we'll go, go, go, go, go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. Si chiama wedding sharing dall'inglese, perché noi in Italia dobbiamo inglesizzare tutto, matrimonio condiviso. In pratica, per risparmiare ti sposi in due, ma non nel senso in due, cioè in due spose e due sposi, così risparmi su alcune spese, almeno secondo quello che dice Federconsumatori, che ha calcolato che si possa risparmiare fino al 40%. Può essere nel suo piccolo una ricetta anticrisi anche questa, e allora noi abbiamo convocato uno dei massimi esperti di matrimonio a livello credo mondiale, se non italiano almeno, Enzo Miccio. Ciao Enzo. Ciao ragazzi, buonasera, buonasera. Conduttore su Real Time di Ma come ti vesti, ma anche di Wedding Planners. Prima di tutto ti voglio chiedere questa cosa qua, questa tendenza di cui parla Federconsumatori, l'avete in qualche modo un po' riscontrata, oppure voi che fate matrimoni a sogno siete su tutto un altro mondo? Su tutto un altro pianeta, mi fa scaponare la pelle, esatto. Se dico la verità, pensare di così nello stesso giorno è una roba che non si può dire. No, mi rendo conto che è un momento di crisi, bisogna guardare i budget e questo lo facciamo costantemente con il mio staff, con i miei clienti, però quello che voglio dire, il buon gusto non risente di crisi, quindi ci si può veramente inventare un matrimonio di gusto, sì, senza doverlo per forza condividere. Qua stiamo parlando di matrimoni su misura. Come puoi fare un matrimonio su misura e accontentare quattro teste? Certo, due misure diverse, quattro, poi quattro suocere. Pensa le mamme della sposa, delle due spose, diventa una cosa delirante. No, io vado in pensione subito se succede una roba del genere. Certo. Però come è successo invece in questi anni, ora dico una cosa che magari anche fra l'altro di lavoro con un'agenzia tua tu ti occupi di questo, no? Il momento più bello per molte persone, sognato eccetera, ma com'è successo che in questi anni i prezzi sono cresciuti, la gente si indebita, insomma... Questo non è successo solo nel campo del matrimonio, voglio dire, dopo l'avvento dell'euro, io mi ricordo benissimo, io faccio questo lavoro sin da prima che fosse l'euro, ogni cosa veramente è quasi raddoppiata, ma questo si parte proprio dalle forniture, dalle materie prime, sì, dalla semplice rosa, no? Che prima costava 1.000 lire, adesso costa 1 euro, che ne sono ben 2.000 lire, naturale che poi i prezzi veramente si fa fatica a gestirli. E poi un continuo aumento nel corso degli anni, per esempio ho commissionato del tovagliato bello per un matrimonio di una mia cliente e questa è la mia fornitrice mi diceva: Enzo, il lino, quindi materia, il greggio, quindi la materia, sì, prima dal quale poi facciamo le tovaglie, è aumentato del 7%. Dico, ma solo la materia materia prima, poi considera che questa materia prima deve essere lavorata, deve essere confezionata dalle persone che lo fanno, il trasporto per portarmelo, eccetera. Quindi è inevitabile che questo prezzo che si pensava, che è stato riservato alla cliente dell'anno scorso, non lo posso più riservare alla cliente di quest'anno. Quindi, motivi per cui il prezzo può salire, abbiamo capito, sono molti. Ma se proprio uno, come dici tu, non vuole condividere il matrimonio, perché poi per la sposa media italiana, allora come si può risparmiare? Per esempio, io ho sentito che ci sono delle suore, mi pare in Umbria, che recuperano i vestiti e li riadattano, fanno cose di questo tipo per le spose, oppure anche questo non va bene, Enzo? Ma no, allora ascoltami, l'abito vintage è una moda che naturalmente ha il suo pubblico piuttosto di nicchia, perché comunque l'abito da sposa vintage è un abito molto particolare, legato a un certo periodo storico, e quindi si vede proprio, per indossare il vintage devi avere una certa personalità importante. Ma al di là dell'abito, tu sappi che se c'è un minimo di buon gusto, un minimo di una persona che può aiutarti nella scelta, orientarti, eccetera, in questo vastissimo mondo, un abito si può comprare con 1000 euro, così come si può comprare con 5000 euro. Oh, così finalmente ci hai dato una buona notizia, insomma, ecco, si può risparmiare, è una questione di buon gusto. Si può risparmiare, ma in tutte le singole voci, sì. Considera che purtroppo in Italia c'è questa falla, chiamiamola così, questo inganno, che pensare di organizzare, quando si parla di organizzare un matrimonio, si pensa di mettere a tavola le persone e a buffare, ma non è questo, perché poi se tu ci fai caso, nessuno ti parla del fatto che il banchetto di nozze non si tocca, eh. Se io dico, ma allora facciamo una bella colazione, facciamo una cosa light, facciamo un bel cocktail prolongé, no, quello non si tocca, perché il mangiare, gli italiani sono proprio fissati, esatto. E invece tu dici si può risparmiare, per esempio facendo mangiare un po' meno, perché tanto poi adesso, poi alla fine tutti si lamentano che sono troppo lunghi questi pranzi, che si mangia troppo, quindi risparmiamo qualcosa qua. I vestiti si possono scegliere con oculatezza, ognuno in base anche al proprio portafoglio, perché è giusto dirlo, se uno vuole spendere spende, ma se uno non ha, non deve indebitarsi per arrivare a fare questa cosa. No, non è necessario, ti assicuro, perché qualsiasi voce di spesa si può fare, un centrotavola con dei bellissimi fiori da campo, con la luce di candele, la candela non è un prezzo eccessivo, giocare con piccoli elementi, un colore particolare, un nastro, la cura del dettaglio, del particolare, rende questo matrimonio un po' più ricercato, un po' più curato, senza dover per forza indebitarsi. Ecco, adesso che ci hai, che siamo andati un po' a rasoterra per cercare di risparmiare, cioè dacci così per chiudere, per salutarci, invece una nuova tendenza, qualcosa, un matrimonio bellissimo che hai organizzato, qualcosa che uno proprio si mette lì e sogna chi si deve sposare, vabbè, naturalmente, io ho già dato. Se volete sognare, dovete seguirmi, perché domenica ci sarà il mega matrimonio di Valeria Marini, quindi mi sto occupando di organizzare questo bellissimo evento. Questo non è un matrimonio, questo è veramente un evento, qua c'è veramente da sognare, ci sono tantissimi ospiti, i numeri di questo matrimonio sono davvero davvero stratosferici, cioè proprio, quindi, da favola, insomma, ma andrà in onda da qualche parte, ci sarà uno dei servizi dove lo potremo vedere? Ci saranno le esclusive, ci saranno tutti i giornali e quant'altro, quindi è ormai iniziato già il countdown. Non oso immaginare la parcella per fare questo lavoro, che sarà stata straordinaria. No, Valeria è una mia carissima amica. Sento dei commenti anche là intorno. Vabbè, insomma, quindi per sognare bisogna andare a vedere poi le cronache del matrimonio di Valeria Marini. Noi ti diamo appuntamento a che ora, quando, ricordacelo, con Wedding Planners, così facciamo anche e ricordiamo allora, questo. No, io prima di Wedding Planners riparto con l'eleganza del maschio, con questo nuovo format che va in onda a partire dal 13 maggio, tutti i giorni, questa quotidiana, dove parlo finalmente di un po' di buon gusto per i maschietti, perché parliamo sempre delle ragazze, delle donne, eccetera, ma ci trascuriamo gli uomini. Siamo un po' trascurati. Infatti mi occupo di loro, cercando di farli, di trasformarli in gentiluomini. Quindi c'è questo programma che si chiama L'eleganza del maschio. Dopodiché parte subito Ma come ti vesti, le puntate della nuova stagione, la settima stagione di Ma come ti vesti, e in autunno ritorna Wedding Planner. Adesso ci saranno forse delle repliche in onda. Sì, va bene. Sto registrandole adesso, quindi andranno in onda nel prossimo autunno. Grazie per essere stato con noi, Enzo Miccio. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli con i tuoi. Benvenuto a un treno verso il mare e che arriva in tempo per Natale. Benvenuto ad un artista e alla sua passione. Benvenuto a chi non cambierà mai.

congiuntivo. Sì. Aspetti. Il congiuntivo, insomma, è quello che tutti sbagliano, tanto che qualcuno vorrebbe anche abolirlo. Invece la notizia è questa qua: è nata un'associazione a Gela, l'iniziativa di una insegnante di scuola primaria, che vuole salvare il congiuntivo, quello che Fantozzi sbaglia, quello che sbagliano in tanti. Salutiamo intanto quella che ha dato l'iniziativa, il via a questa iniziativa, Rosalba Occhipinti, maestra di Gela. Buongiorno Rosalba. Buongiorno a voi. Allora, noi abbiamo fatto sentire il mitico Fantozzi, no? Però chi non ha sbagliato? Ah, poi si può anche sbagliare, l'importante è rialzarsi e sapere che il congiuntivo va pronunciato correttamente, perché ormai non lo vuol fare più nessuno, tutti vorrebbero parlare al presente, faccio, vado, vedo. Infatti. Però Rosalba ha una storia particolare, perché voi siete partiti da una classe di prima elementare. Sì, sì, sì, proprio così. Con questo concetto anche proprio del congiuntivo anche, no? Sì. E poi è nata l'associazione, raccontaci Rosalba questo percorso. Molto dopo, qualche anno dopo è nata appunto l'associazione. Sì, allora il congiuntivo errato mi ha sempre fatto un dandino inorridire. Quindi come maestra di scuola primaria ho pensato di iniziare da subito con i bambini ad abituarli appunto ad un uso corretto del congiuntivo. E chiaramente questo non significa escludere i tempi degli altri verbi, per carità. Beh, però sì, so che quello che si sbaglia più spesso è questo, è proprio il congiuntivo, chissà perché. Perché non è facile, però mi diceva Rosalba che proprio la cosa che non sopporta è quando uno inizia la frase col congiuntivo sbagliato. Facciamo l'esempio così tutti capiscono e si medesimano. Sì, quando si inizia dicendo se potrei, se, sì, se verrei, ecco. Se potrei. Sicuramente, se potrei. Se potessi, se sapessi. Non so, è un automatismo, si impara se uno ha una maestra come Rosalba, per esempio, da piccola alle scuole elementari, altrimenti poi si entra in questo fraintendimento e si passa tutta la vita. Per esempio, io voglio far sentire a lei e anche agli ascoltatori un maestro assoluto dell'inciampo nei congiuntivi, che è Lapo il Can. Sentiamo. Che uno ne dica, e che sia stato fatto, Ranieri è, resta e rimane un signore. Dunque i giocatori mettono, scusatemi il termine poco raffinato, ma i coglioni sul tavolo e dimostrano quello che valgano sul campo. E Dino prova soprattutto anche di rispetto di una persona che le ha guidate. Vabbè, qui c'è addirittura un'esagerazione, cioè mettino, Dino, cose proprio che non si sono mai sentite. Io ho citato la Polcam perché si sente spesso in televisione, quindi non è che possiamo far finta di nulla. Questo chissà se poi fa apposta o se c'è o ci fa. Che dice Rosalba? Ma non so. Potrebbe non essere anche un vezzo, non si pronuncia. Rosalba, interessano i ragazzi della sua classe, che adesso sono arrivati in quinta elementare e hanno dato vita a questa associazione insieme a lei. Cosa farà questa associazione? Come la vedete? Allora, come la vivete? Si interesserà, farà in modo che i soci sostenitori e i soci fondatori, perché è aperta intanto a tutti, utilizzino bene innanzitutto il congiuntivo e lo divulghino. Una cosa simpatica ad esempio è stata quella di, io intanto ho coinvolto tutte le famiglie e con loro Rosalba ha creato i cavalieri del congiuntivo, cioè non solo loro dovranno dirlo giusto, ma dovranno andare in giro a bacchettare i genitori che magari bacchettare, simpaticamente, si può anche bacchettare. Simpaticamente, ci mancherebbe, sempre simpaticamente. Poi c'è questo personaggio che è un po' il vostro Alberto da Giussano, come per la Lega, no? Il Basilio Puoti. Chi è Basilio Puoti? Basilio Puoti. Chi è stato un purista napoletano, il quale appunto amava il congiuntivo in una maniera smisurata, amava l'italiano, la lingua italiana. Lui sosteneva che purtroppo sotto i Borboni la nostra lingua aveva perso la propria caratteristica e quindi tutti quanti parlavano in maniera errata, ma soprattutto appunto sbagliavano il congiuntivo. E lì ci sono aneddoti su questo personaggio famosissimo, per esempio? Illustre, per esempio quello che appunto un suo amico una notte andò a svegliare dicendogli vorrei che tu scendi, al che il Puoti si arrabbiò tantissimo, ma non perché appunto lui fu svegliato nel cuore della notte, ma proprio perché l'amico aveva chiaramente volutamente sbagliato il congiuntivo. Ecco, questo è uno dei tanti aneddoti. Insomma, tra un aneddoto e l'altro si tengono più svegli, più interessati anche i ragazzi, i bambini, insomma. Sì, perché questo è importante. Ce vuole naturalmente spirito. Sì. Cioè, è chiaro che a scuola bisogna creare le condizioni che permettano appunto ai bambini di ascoltare, di imparare, ma in maniera tra virgolette ludica. Questo vale per tutto, però insomma anche per questa iniziativa io trovo il titolo che ha scelto la stampa bellissimo, l'Allegra Brigata che vuole salvare il congiuntivo. Grazie a Rosalba Occhipinti per essere stata con noi, la maestra di Gela all'origine di questa iniziativa. È tutto anche per questa puntata. Io saluto e ringrazio Valentina Magri, Guido Scotti in redazione, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Fabio Cantadori in regia. A me mi trovate su Twitter @AleMaurizzi. Ci sentiamo sabato prossimo. Senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi. Che dico? No, forse ho toccato un argomento che non... No, l'espressione, non è l'argomento, è l'espressione. Preferisce... Matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla? Preferisce rapporto in crisi, però è così kitsch. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi, ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto... È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa! E tu? Come parla? Le parole...